Bene, grazie, grazie a tutti. Io sono anche un po' emozionato per questa presentazione del primo titolo della collana Working Class di Alegre, che è poi collegata anche a una presentazione che avevo fatto del mio libro 208 metri l'ultima volta che sono venuto qua, sono stati 5-6 mesi fa, non di più, e avevamo da poco deciso con la casa editrice Alegre di lanciare una collana nuova. Ecco, la collana Alegre ha delle collane molto interessanti, una è Quinto Tipo, che si interroga sulle scritture ibride, non classificabili, direttamente negli ambiti della narrativa o della finzione. Un'altra collana molto importante è quella Feminism, che si occupa di questioni di genere, cerca di intrecciarle e di intersecarle con questioni poi di etnicità e classe. E venendo alla classe, a un certo punto è arrivata questa proposta di lanciare una collana che si chiamasse Working Class, dedicata al tema delle scritture operaie e delle scritture che raccontano la nuova classe lavoratrice. Non è una cosa che è uscita all'improvviso dal nulla, c'era, diciamo, una continuità fra tutta una serie di produzioni della casa editrice, che magari erano andate ora sull'una, ora sull'altra, delle collane già aperte. Il mio libro Amianto, una storia operaia, appunto, era uscito in seconda edizione proprio per Alegre. Nel frattempo JAP, che è un progetto con cui ci sono delle continuità, JAP, appunto, il blog della Wuming Foundation, a un certo punto pubblicò qualche anno fa un mio scritto intitolato Per il pane e le rose, sulle nuove scritture operaie. E era un testo in cui buttavo giù alcune linee guida per raccontare la nuova classe lavoratrice. In realtà non parlavo tanto della vecchia classe operaia degli anni 70, che non è che non mi interessasse raccontarla, però sostanzialmente c'erano già stati dei tentativi di raccontare quella classe, alcuni dall'interno della classe, altri dall'esterno. Io distingo molto spesso la letteratura industriale italiana, che era composta per lo più di autori intellettuali appartenenti alla classe media, che raccontavano il mondo dei lavoratori vedendolo da fuori e percepivano soprattutto il tema dell'alienazione. Quindi erano narrazioni in cui mancava un aspetto forte di soggettività, e molto spesso questi operai erano raccontati enfatizzando gli aspetti dolenti della loro condizione. Mancava la dimensione di convivialità, mancava l'umorismo, mancava il momento del tempo vivo che è nel tempo morto del lavoro. Ed era, diciamo, un tipo di narrativa che mi lasciava parzialmente insoddisfatto. Ecco, non che mi dispiacesse, non è che, però dicevo, diciamo, la classe operaia è anche qualcos'altro. C'erano delle opere incatalogabili poi nel percorso della narrativa italiana degli anni 70, che andavano fuori da quel percorso, appunto, tracciato da Bianciardi, da Ottieri, ma anche da Nanni Balestrini, da Polponi. Per esempio, un libro stranissimo era questo Tutta Blu di Tommaso Di Sciaola, che era un operaio pugliese che scriveva con una vena molto irruenta, alternando riflessioni sull'immigrazione, il tradimento dei sindacati, il bello e il brutto del lavoro operaio, un impasto, un'amalgama molto viscerale che, diciamo, non permetteva neanche di catalogarlo e di metterlo in una nicchia ben precisa. Un'altra scrittura operaia molto forte era quella di Luigi Di Ruscio, che era un operaio Marchigiano emigrato nell'Europa del Nord, dove lavorava in una fabbrica che produceva chiodi, filo spinato, aveva questa lingua anche lui di impasto, con narrativa di emigrazione, scrittura operaia. Purtroppo aveva un editing anche lui faticoso, i suoi libri sono usciti in edizioni molto diverse l'una dell'altra, ed è rimasto sempre un autore, appunto, anche lui non catalogabile, su cui gli stessi critici faticavano, diciamo, a metterci le mani sopra, no? A riuscire a incasellarlo. E poi si è parlato di lavoro, si è parlato di narrativa del precariato molti anni dopo, nei primi anni 2000, però in questa narrativa del precariato prevaleva sempre un elemento esistenziale, era finita la dimensione della lotta di classe, che era più presente nella narrativa degli anni 70, c'era questa dimensione esistenziale dei primi anni 2000, dove il precariato era coniugato con storie molto spesso di protagonisti atomizzati, non c'era mai un noi, c'era sempre uno sguardo sull'io, non si faticava a storicizzare, a mettere in contatto il passato e il presente, il conflitto spesso non si percepiva, il conflitto sociale, c'era magari la sfiga, c'era il malessere, c'era il disagio esistenziale. Ci sono state narrazioni sul lavoro, dove però di nuovo, anche fino ad anni molto recenti, anche fatte bene, però spesso carrellate di lavori in cui passano tanti lavori l'uno all'altro, e prevale molto sempre, diciamo, con questa difficoltà a trovare il tema della solidarietà tra gli sfruttati. Non c'è conflitto, non c'è la solidarietà, c'è di nuovo questo devastante buco nero attorno alla figura del lavoro, e poi ancora tante altre cose che mancano. Abbiamo scritture sul lavoro, sono per lo più fatte da scritture, appunto, ancora al maschile, di uomini bianchi, e siamo indietro in Italia su questo frangente, per esempio con quello che è stato fatto in Inghilterra. Non abbiamo, come in Francia, una narrativa del transfuga di classe, cioè i figli operai raccontano non è che sono diventati borghesi, perché è una cosa che non sta succedendo più, non c'è più mobilità sociale, quindi sarebbe assurdo che non avessimo una narrativa del transfuga di classe come c'è ancora in Francia, però purtroppo non abbiamo neanche una narrativa working class inglese con quel vitalismo, a volte forse un po' troppo testosteronico, però diciamo questa prospettiva dal basso, da piani bassi del mondo del lavoro, con una capacità di riverenza, di derisione anche comica, grottesca, nei confronti dei piani alti, e prevale sempre fortemente questo senso di sconfitta che ci sta ancora addosso, diciamo, agli operai. Intanto la classe operaia è cambiata, c'è sempre meno tutte blu, un po' perché astutamente, per colpire l'immaginario, si sono tolte. C'è molto meno lavoro metalmeccanico, è classe lavoratrice oggi chi fa anche compiti, diciamo, di pulizie, lavori che un tempo erano considerati da donne, lavori di cura, ci sono lavori, insieme alla produzione si fa riproduzione sociale, e anche questo è qualcosa che ti fa classe lavoratrice, anzi direi molto spesso che ti proletarizza, perché il fatto stesso anche a volte di dover lavorare, avere un figlio, già fa di te un proletario, cioè qualcuno che fa conti con la dimensione della riproduzione e che è sfruttato due volte. E c'è il tanto lavoro domestico, che è un lavoro sfruttato, subalterno, proletario, e c'è quindi una nuova classe lavoratrice di cui dobbiamo da una parte delineare i contorni, per questo forse ci sono i sociologi e ci sono gli economisti, però questa classe lavoratrice deve anche costruire un proprio immaginario, deve raccontarsi, perché se non ti racconti ti raccontano gli altri, e poi non ti lamentare se non sei d'accordo con le prospettive che ti cuciono addosso. E lo scopo della narrativa working class, della collana working class di Allegri, è quello di cercare di raccontare la classe lavoratrice. Partiamo con un libro che in realtà racconta qualcosa, direi, ma serve per dare un passaggio di testimone, racconta un pezzo della vecchia classe lavoratrice, perché racconta ancora quel mondo di mani sporche di grasso, almeno nei primi capitoli, no? E di tute blu. Io spero che con le prossime uscite, che non vi aspettate che saranno proprio mesi, probabilmente usciranno uno o due titoli all'anno, riusciremo a raccontare la nuova classe lavoratrice, composta molto spesso da lavoratori migranti, da donne lavoratrici, da persone che fanno lavori domestici, da una subalternità che è sempre più diffusa, che però è sempre più nascosta, celata, che non si racconta. Quindi scopo della collana è contribuire alla costruzione di un nuovo immaginario working class, ma anche riuscire a identificare questa nuova classe lavoratrice che non ha più l'aspetto di un uomo con una tuta blu e le mani sporche. Ecco, e dobbiamo capire che cosa sta diventando. Però partiamo un po' da un uomo che la tuta blu e le mani sporche di grasso ce l'ha avuto. È l'old school, se vogliamo, però da qui passiamo, perché il nostro scopo è storicizzare, non è tagliare ponti, non è mettere in contrasto le donne sfruttate, i lavoratori migranti di oggi con i vecchi metalmeccanici in pensione. E dobbiamo ricostruire ponti per per trovare dei vasi comunicanti e per riaprire il conflitto contro il padrone e poi lo stesso di sempre, direi. Non so, vogliamo fare prima una lettura? Sì, cominciamo a questo punto con la lettura, la leggenda di un metalmeccanico, perché parliamo di una cosa che sembra sparita. Cominciamo con la lettura. Buonasera. Questo è un bel oggetto, come molti libri. E io sono avvantaggiato perché come attore questa sera vado a leggere un brano di un libro che ha scritto una persona che stimo e cui voglio bene. Però allo stesso tempo, come dire, chi legge diventa un po' autore. Io spero di far passare un po' quello che è il senso che l'autore ha trasfuso nelle sue parole, e quindi mi ci provo. Questo è il capitolo numero 12, sì, sempre, e si chiama Cosmogonia metalmeccanica. Io provo a leggere anche senza occhiali, faccio questo sforzo proprio per lui, però ce l'ho qua. Nel momento in cui do segni di squilibrio, dice: senti, metti gli occhiali che forse è meglio. Allora facciamo questo. Capitolo 12, cosmogonia metalmeccanica. Durante il Pleistocene, cioè nel primo periodo dell'era quaternaria, più comunemente conosciuto come periodo glaciale, la regina Oriona discese sulla Terra con i suoi schiavi. Planarono in una zona tra la Bolivia e il Perù, dalle parti del lago Titicaca. Un enorme specchio d'acqua dalla forma di una punta di un puma di pietra. Da qui il suo nome, Titi, che sta per puma, e Caca, che significa pietra. Sulle sponde del lago, Oriona e i suoi trovarono i pitecantropi, degli esseri con delle arcate sopraccigliari così sporgenti, di sembrare dei muretti a secco. Le loro fronti sfuggenti e i cuscinetti occipitali appiattiti divennero simbolo di laboriosità. Furono i pitecantropi, infatti, a dar vita all'industria della pietra scheggiata, passando alla storia come abili costruttori di choppers, che non erano certo le moto americane delle lunghe forcellone modificate, ma degli strumenti da taglio a una sola faccia ricamati dai ciottoli. I sudditi di Oriona iniziarono forme di vita comuni con i pitecantropi, e dalla loro fusione vennero al mondo gli oreopitechi. Si trattava di veri e propri bamboloni, vedi? Bamboloni alquanto massicci, molto simili agli scimpanzé. Essendo pure loro grandi sgobboni, più interessanti alla pietra grezza che a quella preziosa, si ritrovarono a pestare strade molto diverse dai nascenti australopitechi. grandi camminatori che avevano il corpo piccolo, i glutei robusti e il cervello fino. Come con un volume cerebrale relativo più grande del 25% rispetto agli altri pitechi. Successive evoluzioni fecero spuntare prima i preominidi e poi gli ominidi. Da un ramo collaterale degli ominidi, miscelato con una specie rimasta sconosciuta, sgorgò una nuova razza, quella del metalmezzadro. Si trattava di elementi dediti soprattutto all'agricoltura, ma con la passione di costruirsi in proprio gli utensili da lavoro. Il riferimento al metal del loro nome deriva dal fatto che avevano l'abitudine di bagnarsi in percolamenti ferrosi di colore rossastro, causato dalle matite di alcuni minerali. Il passaggio dal metalmezzadro al metalmeccanico fu molto lento e avvenne per via dell'azione filtrante dei corpi, attraversati per tanti anni dall'acqua piovana. Il fenomeno consistette in una dissoluzione chimica delle parti agricole, a cui furono contrapposte reazioni farrose. Si produsse così una contaminazione generalizzata che rese predominante la parte metallica. I post-ominidi metalmeccanici nel corso dei millenni furono facilmente riconoscibili per le braccia abnormemente allungate. Quando non stringevano attrezzi da lavoro con le loro mani, spesso venivano sollevate mostrando un pugno chiuso, specie quello sinistro. In pugno in aria, nelle forme di rappresentazioni primitive, fu adottato come segno di saluto. Successivamente venne a significare le difficoltà del vivere, poi divenne uno dei simboli dei discriminati di tutta la terra, nei momenti di solidarietà e di ribellione. Il momento di celebrità, quel gesto lo ebbe a Città del Messico nel 1968, quando due metalmeccanici di colore, Tommy Smith e John Carlos, alzarono il pugno chiuso sul podio delle Olimpiadi. Si erano allenati per anni nella loro fabbrica, a scattare a mezzogiorno al suono della sirena, uno sprint per non sottostare alla lunga fila che ogni giorno immensa incanalava gli operai come pecore. Quanto lavoro per preparare bene quella corsa, volate di allenamento lungo le catene di montaggio, esercizi di scioglimento muscolare, balzi a piedi pari sulle postazioni per aumentare la reattività delle gambe, test per i riflessi, piccoli trucchi per superare anche con astuzia gli avversari. A forza di tirarsi a lucido per arrivare primi al piatto di pasta, erano diventati degli sprinter di razza e così erano saliti sui gradini più alti del podio. Però anche in quel momento di gloria non si erano scordati dei loro fratelli e dei loro compagni e li avevano salutati come sempre avevano fatto. Da quando erano diventati classe operaia, i metalmeccanici vivevano un terzo della loro vita nei reparti d'officina o di montaggio delle fabbriche metallurgiche. Quello era il loro ecosistema, perciò andava difeso con i denti e con le unghie. La loro postazione di lavoro era una seconda casa, di pochi metri quadrati di spazio, prestati per 8 ore al giorno, erano personalizzati con le cartoline, le foto, i calendari delle donne nude e le collezioni di ninoli che non si sarebbero potuti mettere da nessuna parte. Gli utensili venivano adattati alla manualità di ciascuno, guai se qualcun altro ci metteva mano. Anche la sedia e il tavolo immensa erano definiti una volta per sempre, solo le tette e i culi del calendario si potevano cambiare una volta al mese e c'era l'autorizzazione per girare la pagina. La vita del metalmeccanico è sempre stata costante nel tempo. Solo gli scioperi, le manifestazioni per il contratto, i picchetti e le bandiere rosse potevano sospendere quell'immutabile ciclo continuo. Da un po' di tempo però c'è qualcuno che sostiene che i metalmeccanici diventeranno una razza in via di estinzione o tutt'al più una razza geneticamente modificata. Come le giraffe furono costrette ad allungare il collo per brucare le acace, così gli uomini che sopravvivevano alla tuta blu dovranno essere flessibili. Lavorare come vuole e quando vuole il padrone. Insomma dovranno disarmonizzarsi, o spariranno o diventeranno degli operai a fisarmonica. entrando nel merito appunto della narrazione di Valerio, e sono un po' fuori posto secondo me, nel senso che da non bolognese o da bolognese brevemente, io e Valerio ci siamo incrociati varie volte in passato, però io realmente ho conosciuto la sua storia leggendo il libro, quindi entrando pagina per pagina in una storia effettivamente piena di strati, piena di profondità, piena di aspetti anche difficili da scrivere. La seconda premessa che volevo fare è che Valerio inizia a lavorare in fabbrica nel 1975, che è l'anno in cui io sono nata. Quindi leggendo il libro riprendo un dibattito, una rappresentazione del mondo della fabbrica che di fatto ho sentito soltanto raccontare, perché un po' il mondo che io ho visto con i miei occhi è un mondo che parla di altre categorie di fabbrica, che parla anche di un'altra fabbrica o che parla anche di un altro mondo del lavoro, di un'altra precarietà. E quindi diciamo tutto il libro riempie un po' questi buchi, cioè racconta in prima persona tutta la trasformazione del mondo del lavoro degli ultimi 40 anni, 43 anni appunto almeno. E in questo ci sono vari strani posizionamenti, perché appunto mentre leggevo in particolare le prime pagine i racconti più precisi appunto della fabbrica, partendo dall'inizio del libro e per arrivare per punti chiave fino alla fine, descrive un mondo che è anzitutto un mondo maschile, per cui appunto il mondo della fabbrica, come l'abbiamo sentito descrivere adesso, un mondo che per me rimane appunto nei racconti e che però contemporaneamente appunto ci porta ai giorni nostri, ci porta ai giorni nostri con delle frasi anche forti. Cioè Valerio in alcuni punti dice: stavamo entrando nel mondo in cui c'è chi lavora tantissimo e che c'è chi è completamente disoccupato, quindi un mondo molto violento nella stessa organizzazione del lavoro. Però soprattutto lo fa, cioè ci porta dentro questo mondo in un modo che non è facile leggere. Cioè io ho letto una lettura in prima persona che mi sembra quasi una lettura femminile in prima persona, perché è una lettura in prima persona completamente trasparente a appunto tutto quello che accade. E tutto quello che accade, per andare nei punti che secondo me sono stati più belli alla fine in questo testo, ci sono anzitutto due capitoli che secondo me sono particolarmente belli, oltre agli altri, però diciamo sono quelli in cui secondo me si mettono in risalto più cose. Il primo, che arriva all'inizio, cioè nella prima parte del libro, anche se poi è spostato cronologicamente, parlo un po' della fine, è la parte in cui si parla di che cosa significa essere senza lavoro, che secondo me è una cosa interessante per tante ragioni, perché intanto Valerio parla sempre in modo molto ironico, qualunque cosa capiti c'è sempre dell'ironia, per cui una postura politica, personale, all'interno del lavoro, appunto ironica, che però a un certo punto raggiunge anche dei punti estremamente amari e che quindi in quanto ironica non può essere mai una postura eticamente lavorista. Però nel momento in cui arriva la disoccupazione un po' ci troviamo dentro le contraddizioni dell'oggi, per cui noi diciamo non siamo eticamente votati al lavoro, però effettivamente il momento della disoccupazione è un momento che mette totalmente a nudo, e quindi ci sono dei punti estremamente belli in cui per esempio dice: uno dei momenti più difficili della giornata era la mattina, quando mia moglie e mia figlia, dopo esserci fatti insieme il caffè, uscivano per andare a lavorare e io rimanevo a casa in ciabatte. Loro erano bravissime a non farmelo pesare, ma per me era così innaturale quella situazione che mi faceva stare davvero male. I primi tempi, appena solo, mi vestivo rapidamente e, come avevo sempre fatto, andavo all'edicola sotto casa a comprare il giornale. Temevo, da parte del giornalaio, se ci fosse andato più tardi del consueto, domande che mi avrebbero imbarazzato. E non volevo mostrarmi nella veste del disoccupato depresso. E quindi appunto ironia, molta forza politica, però appunto la depressione economica, deindustrializzazione e solitudine, perché poi la parola che torna spesso è solitudine, più ancora che altre cariche emotive. Solitudine che ci fa vedere appunto il cambiamento del mondo del lavoro, la frammentazione, prima la solidarietà e poi il timore di altre relazioni, appunto. E nel contempo una morale anche, cioè un'etica carina, perché all'inizio del libro diceva fare strada agli ultimi senza farsi strada, è tutto intervallato appunto da posture sociali. E poi arriviamo, e in questi passaggi ci sono dei passaggi duri come difficilmente, secondo me, appunto io lo guardo da donna, per cui difficilmente una scrittura maschile guarda anche alle debolezze in modo così trasparente, ironica, dura, leggera, magari passaggi sfuggenti che però appunto mostrano anche la crudeltà del modo in cui è organizzato il mondo contemporaneo, per cui la disoccupazione significa solitudine, significa crisi personale piuttosto che crisi sociopolitica. Per arrivare alle altre parti, che sono quelle che poi magari adesso ci racconta direttamente Valerio, che sono quelle appunto che cronologicamente sono prima, sempre spostate, però altri momenti chiave, appunto magari altre forme di solitudine, quindi la solitudine più politica e quindi il carcere, quindi questo momento di autoriflessione che però è di profondo isolamento. E quindi insomma un modo di vedere gli ultimi 40 anni con una intimità che difficilmente un libro ci regala, per cui secondo me un libro estremamente generoso da questo punto di vista, che chiederei a Valerio di raccontarci un po', cioè che cosa è stato scriverlo anzitutto e che cosa è stato vivere appunto un'epoca di trasformazione che rimanda a 4 decenni, ma che è stata vertiginosa dal punto di vista di quello che ha prodotto nel mondo del lavoro, nella politica contemporanea e nel modo in cui individualmente abbiamo attraversato queste fasi. Per cui io passerei il microfono a Valerio. Beh, ci ho messo parecchio a scrivere questo libro, molto, molto, molto di più che altri. E in primo luogo perché, come ha scritto Alberto Brunetti nella Bandella, molto spesso dice, i proletari trovano il tempo per scrivere quando finiscono in carcere. E in effetti, io ho cominciato a scrivere questa storia, vedete quelle cose che girano dietro nelle foto, c'è un manoscritto, nel 1980, quando appunto finì in carcere e nei lunghi 6 mesi di isolamento prima di finire in sezione avevo la necessità di far passare il tempo e cominciai a scrivere le storie che avevo vissuto negli anni precedenti nella fabbrica a cui lavoravo, che era la Ducati. Poi vi dico perché sono finito a fare l'operaio, una cosa forse anche abbastanza curiosa. E la cosa interessante di tutta questa vicenda è che io in quel momento avevo la censura, non potevo fare uscire nulla che non fosse stato letto dai magistrati, e tutto il manoscritto riuscì comunque a uscire dal carcere con varie modalità, insomma, a volte con dei fogli che erano dentro le lettere di altri detenuti, a volte con detenuti che uscivano e portavano a casa mia pezzi appunto del libro. Poi è rimasto fermo questa storia, è rimasta ferma per tanti anni. E poi 4 anni fa ho deciso di riscriverla aggiungendo anche un altro periodo della mia vita. E ho fatto forse l'errore, dopo averla scritta, di farlo leggere a un mio grande amico che però probabilmente ha un approccio abbastanza diverso dal mio, è Franco Berardi Biffo, che lesse la storia e disse: c'è una drammaticità straordinaria, ma quell'ironia che metti dietro ogni pagina è troppo fastidiosa, non la sopporto, devi essere più drammatico. E quindi capì che non era forse, anche se è stato molto utile, insomma, nella fase di modifica di alcune parti, però non era la prova. Io gli dicevo: Franco, guarda che io sono sempre stato in mezzo a persone che avevano dei problemi, in alcuni casi anche a persone disperate. Se io mi fossi rapportato a loro con la stessa loro disperazione, probabilmente andavo fuori di testa. È stato un modo anche per salvaguardarmi. E tutta questa parte che appunto scrissi in carcere è la prima parte della mia vita lavorativa e anche di militanza politica. Insomma, la scelta della fabbrica fu una scelta politica. Nel movimento, un movimento come il movimento di allora, dei fine anni 60, primi anni 70, era un movimento di studenti che guardavano con molto interesse agli operai e quindi andavano davanti alle fabbriche per portare parole d'ordine nuove che poi riuscirono anche ad attecchire, perché parlare di aumenti uguali per tutti all'inizio degli anni 70 era un'eresia, però nei contratti di lavoro del 73 appunto venne accolta questo tipo di logica, o parlare di passaggi di categorie che tenessero conto dell'anzianità di lavoro e non di quella che veniva chiamata professionalità. Quando in un'azienda metalmeccanica tradizionale la professionalità era qualcosa difficile da andare a individuare in operazioni da 50-60 secondi. E quindi questo tipo di situazione che si determinò poi nell'entrata in fabbrica e che trovò tanti altri ragazzi che avevano la mia stessa esigenza, insomma, e si trovarono tutti su una catena di montaggio, che cominciarono poi questi tipi di realtà di lavoratori giovani a produrre anche delle forme di lotta che andavano in qualche modo a caratterizzarsi in maniera molto diversa da quelle degli operai dei decenni precedenti. E qui nacquero le prime contraddizioni tra gli operai anziani che dicevano: voi giovani non siete degni di stare in una fabbrica, perché per stare in fabbrica bisogna essere seri, bisogna lavorare e bisogna soprattutto fare di più. E l'operaio comunista soprattutto deve dare il buon esempio, deve fare di più degli altri, per essere credibili deve essere il primo sul lavoro. Quindi questo tipo di situazione produsse anche una frattura molto, molto, molto grossa, e al tempo stesso creò, diciamo così, la necessità di trovare delle nuove forme di organizzazione che tenessero conto di questa nuova presenza sociale dentro le aziende. E cominciò ad uscire anche la necessità di cominciare a raccontare in maniera diversa le storie che dentro le fabbriche c'erano. Per esempio, dopo alla fine ve lo distribuirò, ho ristampato il volantino che dei compagni operai, insomma, fecero dopo il mio arresto e che poi andarono a distribuire nei giorni successivi, nel mese di novembre del 1980. Ed è un volantino qui. Poi lo vedete, però dopo ve lo distribuirò, molto particolare, perché non è scritto nel modo classico con cui veniva scritto un volantino per dare agli operai. Era un volantino che parlava di vite parallele e metteva appunto in parallelo la vita che gli operai tutti i giorni dovevano vivere all'interno di un reparto, di una fabbrica, di una catena di montaggio, e quella che ero costretto a vivere appunto in quelle giornate sbarrate. Questa necessità di raccontare, anche di narrare la nostra esperienza operaia produsse negli anni successivi anche una quantità di giornali che sono quelli che vedete in questa piccola mostra che il Centro di Documentazione ha allestito per questa sera. Sono fogli scritti direttamente dai lavoratori, da operai, e che produssero anche una esperienza interessante dal punto di vista della scrittura. All'inizio del 1980 ci fu anche una rivista culturale che si chiamava Abiti Lavoro. Abiti Lavoro era la voce, una delle voci che della busta paga comprendeva anche la necessità di dare un rimborso spese per la pulizia degli abiti. Allora gli abiti non si portavano a casa ma venivano lavati collettivamente, quindi nella busta paga c'era anche questa voce. Quindi questa rivista operaia di poesia, di narrazioni, di racconti, si chiamò Abiti Lavoro ed era la prima rivista culturale scritta direttamente da dei lavoratori e non scritta da intellettuali che interpretavano, come diceva Alberto prima, la vita dei lavoratori. Tutte queste esperienze, anche di scrittura, portarono poi negli anni successivi, quando la fabbrica arrivò al punto per me di essere vissuta come una galera, insomma, attorno ai 30 anni decisi di uscirne, al fatto di costruire una cooperativa editoriale e a partire appunto da quell'esperienza dei giornali di fabbrica, dei giornali di movimento, dell'autoproduzione di questi fogli di scrittura operaia, che per i 20-25 anni successivi mi occupò quasi a tempo pieno. Poi c'è stato così improvvisamente un rientro all'interno della fabbrica, una cosa anche inaspettata. Insomma, è partito un progetto nel carcere di Bologna, una fabbrica metalmeccanica dentro il carcere, e dopo che questo progetto era partito mi hanno chiesto se avevo voglia di andare lì a facilitare, questo è stato l'obiettivo che mi era stato in qualche modo richiesto, di facilitare il confronto tra operai in pensione che andavano a insegnare a dei giovani detenuti con delle pene molto significative, cioè sopra i 10 anni per capirci, il lavoro del montatore meccanico. E io ho deciso di andarci, anche perché insomma in primo luogo appunto non avevo un lavoro, e quindi era comunque un lavoro che mi interessava, anche perché aveva a che fare con i soggetti sociali con cui avevo vissuto per tutta la vita, insomma, dentro e fuori la fabbrica. E in quel contesto ho rincontrato, nel libro scrivo, sono tornato a pestare il pavimento di un'officina insieme a quegli operai anziani che, con cui avevo combattuto, anche mi ero scontrato in fabbrica negli anni 70. Con una differenza però, che quelli negli anni 70 il lavoro professionale lo facevano a chiacchiere, cioè nel senso lo proponevano come ideologia. Questi erano veramente dei manici della meccanica, quelli che ho incontrato oggi. Gente, come dicono loro, che sono capaci di fare le scarpe meccaniche a un moscerino, che dicono che la meccanica è un linguaggio universale, che loro, molti di loro sono montatori trasfertisti, quelli che vanno in giro per il mondo a montare linee di produzione oppure macchine automatiche. Sono quelli che in qualche modo hanno permesso i processi di automazione. Noi parliamo spesso oggi di processi di automazione che riducono la necessità di lavoro e come questi processi di automazione vengono utilizzati non per liberare dallo sfruttamento e dal lavoro i lavoratori, ma per accentuare di più le contraddizioni, da una parte espellendo manodopera e dall'altra facendo lavorare di più quelli che rimangono. Molti di questi operai in pensione che ho incontrato sono quelli appunto che hanno montato queste linee di produzione automatizzata, soprattutto nel settore del packaging. Sono persone che hanno una grande capacità manuale. Io ho riscoperto in questi anni anche la bellezza della sapienza manuale, che poi mi ha permesso di fare anche dei viaggi incrociati, insomma, a quello che stavo facendo. Mi ha permesso di capire, per esempio, come durante la Resistenza le brigate di città erano composte soprattutto da operai che usavano la loro sapienza manuale per essere più efficaci nelle armi che costruivano per andare a combattere i nazifascisti appunto nei territori urbani. Bene, questi operai raccontano che la meccanica è un linguaggio universale. Loro parlano quasi solo il dialetto bolognese e hanno a che fare con operai detenuti che in massima parte vengono da tutti i paesi del mondo o da altri paesi dell'Italia, perché dicono: ma noi abbiamo girato il mondo, siamo stati in Cina, in Argentina, in Jugoslavia, in Inghilterra, in Germania, e con il dialetto bolognese e con la nostra capacità meccanica ci siamo comunque fatti intendere sempre. E dicono che la meccanica ha una forza superiore alla musica per unire le persone. Cioè, quindi rendete conto che sono dei personaggi abbastanza interessanti da questo punto di vista. E nella seconda parte del libro io utilizzo le loro narrazioni, i loro modi di raccontare appunto questa cos'è la cianfrinatura, per esempio, o cos'è il blu di Prussia, tutte cose che poi andrete a leggere nel libro, che non ne sto a spiegare, che però con un linguaggio molto comprensibile terra a terra e anche molto, molto colorito e interessante. L'uso delle loro metafore comunque è molto accattivante, sarebbero alcuni di loro degli attori più che consumati, insomma, nel senso che quando dicono che la testa non è un distanziale per le orecchie, per usare per, utilizzando sempre metafore di meccanica. Ma la cosa interessante che in questo secondo incontro con gli operatori professionali che ho avuto è che, al di là di, appunto, di riscoprire questa dote, questa, per certi aspetti, questa capacità, questa sapienza manuale, c'è un aspetto che oggi si fa molta più fatica a trovare in giro, e cioè il senso di solidarietà. Questi operai 68enni, 70enni, 72enni che vanno in carcere due volte a settimana a confrontarsi con dei ragazzi che non sono proprio gli stinchi di santo per certi aspetti, però con lo spirito di poter insegnargli qualcosa che possa essere utile a questi ragazzi per uscire e per non rientrare dentro quel carcere. Vi faccio un esempio: c'è una recidiva del 75% rispetto alle persone che frequentano le carceri, che rientrano dopo essere usciti, e quindi ci sono molti molti casi di persone che su 20 anni della loro vita ne fanno 17-18 di carcere, uscendo e rientrando. E rispetto a questo progetto, insomma, al fatto che poi c'è un tentativo di aiutarli anche a inserire all'esterno, soltanto 2 su 30 di quelli che sono usciti sono rientrati, e quindi significa che si può costruire qualcosa di diverso attraverso dei percorsi di solidarietà, che le politiche che in questi anni sono andate per la maggiore, che hanno fatto la fortuna di tanti nuovi esponenti politici con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, quelle delle manette, di chiudere le porte delle celle, buttare via la chiave, questo tipo di situazione che sentiamo riproposta molto spesso, da questi operai in pensione, che probabilmente quando erano fuori dal carcere la pensavano allo stesso modo, incontrando persone con vite che, di un certo tipo, con difficoltà di vita di un certo tipo, si sono resi conto che anche loro sono cambiate. Questo è un altro aspetto importante. Nel libro c'è tutta una parte sugli ultimi, su quelli che sono in difficoltà. Meccanica, avete capito perché c'è la parola meccanica nel titolo. Vi spiego perché c'è la parola ruggine. La ruggine è stata uno degli elementi che ha caratterizzato la società post-industriale di questi decenni, la chiusura di grandi concentrazioni industriali, intere città dell'Inghilterra, lì, ma anche nostri territori. Cioè, questa mattina sono andato in Bolognina, dove hanno scoperto una lapide a degli operai partigiani della Sarsi morti durante la resistenza, tutto il territorio della Bolognina, che era un territorio operaio con fabbriche come la Sarsi, appunto, la Minganti, la Cevolani, la Casaralta, non è tutta, diciamo così, una situazione che non esiste più. Quindi ci sono queste scatole vuote piene di ruggine, perché i capannoni chiusi, la ruggine è l'elemento principale che si vede ad occhio nudo. La cosa ancora peggiore è stato che dalle cose la ruggine è stata trasferita sulle persone, che sono diventati dei pezzi di ferro arrugginiti che non contano più niente. E in questi ultimi 10 anni, o forse anche qualcosa di più, ho avuto occasione di incontrare tante persone che avevano questo tipo di caratteristica. Quindi in una parte del libro c'è anche questo. Poi ci sono delle cose anche positive, insomma, che riguardano in qualche modo anche esperienze concrete. Si parla del dormitorio, dei progetti del dormitorio, di teatro del dormitorio, si parla della palestra fatta nel dormitorio, e quindi anche di cose, insomma, che hanno dimostrato che è possibile avere dei percorsi diversi. La frase che Francesca citava, fare strada agli ultimi senza farsi strada, è uno degli slogan che mi hanno sempre accompagnato durante la vita. Penso che sia ancora una cosa fondamentale. L'ultimo aspetto, la libertà, è abbastanza semplice capire perché c'è questa cosa, perché la fabbrica era un elemento per la sua organizzazione del lavoro che toglieva libertà, e quindi la battaglia che facevano gli operai, che oggi fanno ancora con molte più difficoltà, è anche una battaglia di libertà. Il carcere è abbastanza conseguente, capire il bisogno di libertà che sta nelle persone. Allora, in questo libro ho cercato di trasferire il bisogno di libertà che tante persone che ho incontrato hanno, e cercando di trasmettere che questo bisogno di libertà che le persone in difficoltà hanno è anche il mio bisogno di libertà, e quindi aiutando queste persone cerco di liberare me stesso. Perché appunto, come diceva Valerio, ce ne sono tanti, però auspicabilmente proprio vorremmo un dialogo, per cui se c'è qualche intervento, qualche domanda, qualche riflessione, la raccogliamo subito, oppure intratteniamo ancora qualche minuto. Se non ci sono domande, io una cosa, aggiungo una cosa io. Una cosa che volevo dire è questa: molto spesso quando si fa una narrativa che parla di oppressi, subalterni, sfruttati, si cerca anche un registro linguistico capace di raccontare la marginalità, l'oppressione, la subalternità. Ecco, ci sono tante soluzioni. Una soluzione può essere, per esempio, quella di rivolgersi a una dimensione vernacolare, come ho fatto anche Pasolini, le ragazze di vita, no? E, quanto mi riguarda il riferimento al vernacolare, c'è per dare una dimensione a una scrittura proprio delle classi popolari. E un'altra possibilità è quella di una sorta di colorizzazione, di meticciato linguistico, di ibridazione. E, quando avevamo tra le mani il tuo manoscritto, ci siamo interrogati con i collaboratori di Alegre sulla maniera migliore per far emergere una voce in qualche maniera originale che esprimesse questa dimensione di classe. E, perché tu non avevi fatto la scelta diciamo, del dialetto, che era una possibilità quella magari di far parlare in Emiliano, insomma, alcuni personaggi, no? È una soluzione che tante altre volte avevamo visto, perché so, pensando, penso all'Armata dei Sonnambuli, ad esempio, c'era quell'attore di origini bolognesi che viveva in Francia, che usava una specie di strano argot che gridava francese Emiliano. E la mia sensazione invece è che c'era già una lingua molto forte nel tuo libro, e in questo senso non c'era questa necessità di trovare una lingua speciale, e questa lingua, paradossalmente, l'hai detto tu prima, era il linguaggio della meccanica. Cioè uno dei punti di forza, secondo me, del tuo libro è che riesci a far girare molto bene il motore linguistico del gergo tecnico, del linguaggio, appunto, della meccanica, che è qualcosa che non è così semplice e scontato. C'è un altro libro di questa nebulosa di testi di scritture operaie che sa fare bene quello che hai fatto anche tu, e non è un caso che l'abbia scritto uno che non è figlio dell'operaio, ma un operaio, uno che ha lavorato in fabbrica perché non l'hanno licenziato, ed è il romanzo Inox di Eugenio Raschi, che è un operaio degli acciai speciali di Terni, che poi appunto si è messo a scrivere perché un altro dei fattori che aiutano le scritture operaie, oltre alla carcerazione, è la disoccupazione. Quindi una volta essere trovato disoccupato, si è messo, mentre cercava un altro lavoro, che tra l'altro mi sa che non è arrivato, si è messo a scrivere una storia di fiction, però in un contesto che conosce molto bene, e uno degli aspetti che conosceva meglio, appunto, è il linguaggio. Il linguaggio è importantissimo. Io dico sempre questa cosa, cioè, quanto è importante il linguaggio tecnico per gli operai. Io lo capivo quando andavo con mio babbo in ferramenta, perché quando andavo in ferramenta io, bene o male, le cose, cioè, per me erano cose che cosavano, ecco, cioè, quando invece ci andava mio babbo c'era un nome preciso, una misura precisa. Quando non c'era mio babbo, ci andava da solo, c'era una specie di interprete linguistico, un semiologo, che era quello che aveva fatto liti, ma stava dall'altra parte del bancone, che mi diceva cosa vuole sto bischero. E capiva, cioè, io gli dicevo la cosa che costava e lui mi dava, magari utilizzando anche, voglio dire, uno strumento di precisione, di misurazione, e mi dava appunto l'oggetto preciso, le viti precise, i tasselli, quello che poteva servirgli. Ecco, quindi la questione linguistica è fondamentale in ogni romanzo, in ogni opera di narrativa. E secondo me la tua risposta è stata questa, per quello non è stato necessario fare un lavoro né di ibridazione, né di slang, né di creazione di una lingua fittizia, perché avevi molto forte e eri nella tua zona di comfort, cioè ci stavi dentro comodo in questa cosa qui, non facevi lo sforzo mimetico di ricostruirla, cioè non andavi su Manoletti o Epli a vedere come si dicono, ma ti stava tanto che, infatti, su queste, quando poi fai un uso non letterale di questo linguaggio, ma fai un uso ironico, prendendo delle metafore e poi interpretandole alla lettera, travisandole in forma parodistica, questo lo puoi fare perché chiaramente hai una competenza così forte nell'ambito della meccanica e nel linguaggio della meccanica che ti riesce di fare questo gioco qua. E questo penso sia un aspetto. Intanto con la collana di Allegri sto facendo quattrino, non so se i soldi trascimano in una maniera impressionante. Ringrazio l'editore per le grandi opportunità. Vabbè, non so, ecco, se vuoi aggiungere qualcosa. C'è un intervento. Ci scappa anche una birra, forse. Continua. Sì, intervengo perché mi sembra molto importante storicizzare questo discorso che ha fatto Valerio sulla centralità della classe operaia in un certo periodo storico. Oggi è il periodo del capitale finanziario, per cui insomma siamo in un altro periodo storico con altri tipi di lotte, quindi con altre problematiche. Però nel 68 da parte della classe operaia ci sono state delle conquiste anche sociali, la contrattazione collettiva del lavoro, ha attraversato la cultura. Io mi ricordo ancora il film di Elio Petri, la classe operaia va in paradiso, quindi voglio dire, ha espresso quindi non so, lotte come il gatto selvaggio, ti ricordi, i quaderni rossi, cioè è stato tutto un periodo storico in cui la centralità della classe operaia per noi che eravamo studenti era fondamentale, nel senso che era un alleato storico importantissimo, manipolato se vuoi dal Partito Comunista, dal sindacato eccetera, però comunque a livello di base nelle fabbriche c'era una concentrazione grossa di persone che tutti i giorni facevano vita collettiva, che erano tutti i giorni sfruttati e quindi per forza di cose prendevano consapevolezza del loro essere, essere sociali, uomini sfruttati, e quello era oggettivo. Cioè disfando questi luoghi, perché oggi non ci sono più, oggi dicevamo è il periodo del capitale finanziario, ovviamente c'è una disgregazione anche sociale e quindi si fa fatica anche socialmente a trovare dei momenti collettivi di lotta, delle lotte comuni, dei discorsi comuni, insomma si fa fatica, cioè senza la classe operaia effettivamente si fa fatica a trovare dei soggetti con cui dialogare. Da un punto di vista femminile, cioè, non so, l'8 marzo storicamente è una data fondamentale, no? A livello mondiale, perché le donne in quel periodo storico in America sono morte sul lavoro, insomma ci sono sempre stati dei morti sul lavoro, insomma, soprattutto nelle fabbriche. Quindi ripartire da qui per capire oggi che cosa vuol dire non avere più dei soggetti di riferimento, non avere più delle lotte collettive, non, secondo me è fondamentale per capire che tipo di percorso storico o di fase storica oggi abbiamo, perché c'è una disgregazione dei soggetti, abbiamo i migranti, c'è una disgregazione economica, tanti contratti di lavoro, da quelli a chiamata, da quelli, insomma, c'è tutte le lotte che sono state fatte dalla classe operaia praticamente sono andate perse. E quindi capire come ripartire, però facendo leva e ricordandoci che comunque in quel periodo storico lì ci siamo stati e comunque ricordandolo possiamo ripartire, pur essendo in un periodo in cui domina il capitale finanziario. Francesca. Leggo un brano che forse intercetta quello che stava dicendo la signora, che scrive a un certo punto, Valerio scrive: su queste considerazioni nel 2010 mi spinsi fino a stilare una bozza di manifesto politico con il quale chiamare a raccolta tutti coloro che se la sentivano di fare qualcosa di concreto per gli altri. E scrive: l'unica arma che abbiamo a disposizione è la solidarietà, cerchiamo di maneggiarla al meglio. George Orwell sosteneva che il sistema di comunicazione del potere si basa sul controllo delle persone e sulla modificazione della realtà, attribuendo alle parole significati distorti. Il vocabolario che la crisi ci vuole imporre è formato da parole aride come tagli, povertà, disoccupazione, fallimento, sconforto, abbandono. Noi invece provocatoriamente dobbiamo affermare il paradosso che la crisi può essere anche un'opportunità. Di fronte ai tanti valori affondati dal consumismo e dall'individualismo, il nostro salvagente è la solidarietà. Dobbiamo aiutarci reciprocamente, confrontarci, fare gruppo, muoverci con gli altri. La sobrietà è la nostra moneta e non può essere svalutata. rispondo ad Alberto, io non sono un esperto di meccanica, anche se dal libro, che sennò porterei delle palle. Io le cose che ho scritto sul libro le ho imparate da questi tutor operai che quasi ogni giorno fanno una conferenza di produzione. Loro erano abituati, diciamo così, ai piani quinquennali dei soviet, e quindi alla mattina, quando entrano, alcuni di loro chiamano i ragazzi raccolti e fanno una specie di conferenza di produzione dove spiegano appunto i vari trucchi della meccanica, le cose che possono sembrare più astuse. Quindi non ho avuto bisogno di andare a leggere sui manuali di meccanica le cose da interpretare per capire sul libro, perché sono una narrazione che io ho acquisito come se fosse una spugna. Quindi questo è, diciamo, il primo aspetto. Sono un esperto, questo lo posso dire, dell'organizzazione del lavoro, perché per tutti gli anni in cui sono stato in fabbrica da operaio, io, il mio compito principale non era quello di invitare bulloni ai motori diesel o ai motori delle moto dentro la Ducati, ma era quello di capire come aiutare i miei compagni di lavoro a lavorare il meno possibile, cioè nel senso a farsi sfruttare di meno. Vi racconto un aneddoto perché secondo me è straordinario. Un giorno mi chiama il capo del personale e mi dice: abbiamo trovato a Torino uno dei massimi esperti di cicli di lavorazione, ha lavorato alla Fiat, in altre aziende, produzioni di serie. È un super esperto, perché noi vogliamo rivolgersi a lui per far sì che anche il sistema produttivo della Ducati si adegui ai tempi. Io dissi: va bene, sono disposto ad incontrarlo, ci confrontiamo su due sistemi di produzione e poi alla fine vediamo che è una questione di rapporti di forza quello che passa. Mi trovai quindi decisi nei giorni precedenti di inventarmi un sistema produttivo. Nella mostra, vedete, a un certo punto c'è un foglio, sembra un sistema algebrico, dove dico che un tempo per fare lotte di classe bisogna essere dei matematici, dove appunto si parla di rendimento, di livelli dell'1,25, 1,28, 1,30 sui tempi di produzione. Lo potete vedere perché è abbastanza simpatico. Io mi presentai con questo foglio da questo ragazzotto tutto che se la tirava un sacco, che diceva: io sono un po' ganassa milanese, anche se era torinese, non ho capito bene, comunque, che diceva: questi sistemi sono efficaci, permettono, diceva lui, di lavorare il doppio facendo la stessa fatica. E diceva: qui c'è, è abbastanza difficile che la cosa funzioni in questi termini, anche perché molto spesso le operazioni di montaggio erano invitare delle viti, potevi invitarle con delle chiavi a mano oppure con delle pistole automatiche, però non c'erano tanti altri sistemi, dovevi passare per forza per quella strada. Comunque mi presentai con questa tabella e gli raccontai che era il sistema che le aziende metalmeccaniche bolognesi che funzionavano meglio avevano adottato. Cominciammo a discutere, insomma alla fine della storia lo convinsi e riuscì a strappare un livello di produzione che era inferiore a quello precedente. Quindi, altra cosa, io poi chiudo su questo terreno. Nel libro è descritto come noi ci organizzavamo per affrontare i tempisti. Nelle catene, il tempista è quel personaggio, che il cronometrista, che sta molto antipatico ai lavoratori, perché viene, guarda mentre tu lavori e misura con il cronometro tutte le fasi di lavorazione e alla fine decide il tempo più adeguato per produrre quel particolare pezzo. Quando arrivavano i tempisti sulle catene di montaggio era battaglia forte, dura. Noi ci organizzavamo, ci preparavamo, nel senso che in quelle giornate i pezzi venivano puliti 65 volte, capito? Perché era comunque un'operazione necessaria, il motore doveva andare fuori lucido e quindi era necessario fare questa cosa. tutte le pistole automatiche sparivano dalla linea e rimanevano solo chiavi a mano. E per esempio tutti rallentavano, cioè sembrava diciamo che lavorassimo con la moviola al rallentatore. Il tempista naturalmente si sentiva preso per il culo da questo e cominciava una battaglia e noi dicevamo completamente scemo, non era completamente scemo, noi dicevamo ma tu hai una qualifica professionale che superiore di noi, eravamo di terza, tu sei di quarta, ma perché devi svolgere questa parte allucinante che stai sulle palle a tutti, tutti ti odiano, rischi anche qualcosa di più soltanto per fare questo? E cercavamo di metterlo in difficoltà anche sul terreno psicologico. Questa cosa molto spesso funzionava, perché poi ecco la cosa, per farvi capire come un tempista possa essere un testa di cazzo, detto la persona che odiavo di più in vita mia, per una serie di ragioni che non vi sto a spiegare perché sarebbe troppo lunga, nel libro un po' c'è, è Sergio Conferati, che è stato sindaco di Bologna con dei risultati insomma che un po' chi è abitato qui nei suoi anni può conoscere. Sergio Conferati è un tempista. Possiamo anche chiudere, c'è un'ottima cena, c'è l'odore del cibo, c'è l'odore del cibo. Abbiamo i gooming dopo, che ragazzi la serata è solo all'inizio, quindi va bene, va bene, grazie. Grazie.